Letture di Radio 24. Se vedessimo una donna o un bambino trascinato con un guinzaglio al collo da un uomo prepotente, non faremmo in modo di fermarlo? Si chiede Pierluigi Battista dopo aver visto una donna in burca al seguito del marito padrone. Avanza su Via Nazionale un omone corpulento, enorme. Ai polsi, attorno al collo, sulle dita di entrambe le mani, sembra una semovente miniera d'oro massiccio. Anelli, orologio, braccialetti, catenine e catenone. Guarda le vetrine distrattamente, camminando con affaticata lentezza, per non sfidare troppo la canicola romana. Dietro di lui, un'ombra nera. Non possiamo sapere nulla del bipede infagottato in una tunica nera che avvolge tutto il corpo, la testa, il volto, gli occhi nascosti da un paio di occhiali da sole, ai piedi scarpe nere piatte, che possiamo solo intravedere tra le pieghe del sudario che arrivano fino all'asfalto. Una donna, ecco, totalmente cancellata come essere umano. Una figura invisibile che cammina a piccoli passi per star dietro all'omone che è il suo padrone e che ostenta la sua arrogante indifferenza verso la non persona che lo segue come una schiava, che nel nome del Corano deve solo obbedire, compiacere il suo tiranno. Magari è solo una bambina, chi lo sa? Non possiamo vedere nulla di lei, trattata e nascosta come un nulla. È la prima volta che ho visto una scena simile a Roma. L'avevo vista a Londra e a Vienna. Qui fa un po' più impressione. Forse è l'effetto sorpresa. Mi domando però se dobbiamo farci l'abitudine a questo triste spettacolo dello schiavismo moderno. Mi domando se il senso di repulsione che questa scena mi suscita sia il frutto di un pregiudizio etnocentrico o se non sia una forma di sano imbarazzo puramente umano. E se non ci si debba ribellare, nelle coscienze almeno, a questo sfoggio di umiliazione delle donne, a questa nullificazione di esseri umani che sole e calpestate non possono cambiare il loro destino. È un costume che va rispettato? Per convivere pacificamente con l'Islam? A me sembra di no. Se noi vedessimo una donna o un bambino o un qualunque soggetto debole trascinato con un guinzaglio al collo da un uomo prepotente, non faremmo in modo di fermarlo? Non vorremmo veder finito quello spettacolo sceno e mortificante? Ci appelleremmo alla pluralità dei costumi, alla varietà vitale delle culture, alla diversità dei modelli sociali, al rispetto che si deve ad ogni fede? Quell'essere minuto senza corpo, senza volto, senza sguardo, senza sesso e genere, sembra piuttosto la vittima designata della nostra ignavia e del nostro conformismo. Se potesse ribellarsi, se noi le dessimo una mano a ribellarsi, ma non vogliamo farlo, nascosti anche noi sotto le nostre paure. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pierluigi Battista, Lo schiavismo moderno e la paura che ci blocca, dal Corriere della Sera del 25 luglio. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Letture di Radio 24. Dopo le purghe messe in atto da Erdogan all'indomani del tentato golpe, ha ancora senso parlare della Turchia come modello di Islam moderato? Si domanda a Claudio Cerasa, direttore del Foglio, in un editoriale pubblicato lunedì scorso. È davvero un rischio accettabile lasciare il Medio Oriente nelle mani di un paese, l'Iran, che teorizza la necessaria cancellazione dalle mappe geografiche dell'unica democrazia matura della zona, ovvero Israele? È davvero un rischio accettabile non muovere un dito di fronte a un paese come la Turchia, che potrebbe convertire la reazione religiosa al colpo di Stato in una controrivoluzione islamica, ponendo fine allo status della Turchia come democrazia secolare? È davvero un rischio accettabile non porsi nemmeno un interrogativo sull'opportunità che il paese guidato da Erdogan sia indispensabile per la NATO, a prescindere dal suo progressivo fanatismo religioso, come lo ha saggiamente definito su queste colonne Giorgio Napolitano. L'impotenza dell'Europa e delle società occidentali di fronte alle continue rivoluzioni islamiche dei due grandi pivot del Medio Oriente, l'Iran sciita, la Turchia sunnita, la si spiega non solo con la condizione di smarrimento vissuta dalle nostre società nell'epoca del disimpegno americano, ma anche attraverso un'altra lente di ingrandimento distorta, che è la stessa che non ci consente di mettere a fuoco il dramma del terrorismo jihadista. E quando ci copriamo gli occhi per non vedere la rivoluzione turca, quando ci copriamo gli occhi per non vedere il totalitarismo iraniano, quando ci copriamo gli occhi per non vedere la sharia applicata da stati amici come il Pakistan e la Turchia, quando ci copriamo gli occhi per non vedere la vera matrice del terrorismo che da mesi colpisce la libertà dell'Occidente, facciamo sempre la stessa cosa e ignoriamo sempre lo stesso problema. Fischiettando spensierati per distrarci un po' e non pensare all'unica parola che andrebbe messa a fuoco quando si parla di Turchia, di Iran e di nuovi totalitarismi. L'islamismo. L'uomo occidentale, ha detto Rémi Bragg, tra i più grandi medievisti viventi, professore emerito alla Sorbona e cattedra Romano Guardini a Monaco di Baviera, è incapace di reagire perché non sa chiamare le cose con il loro nome, non sa definire il problema. Non riesce a vederlo come dovrebbe e come potrebbe e non capisce che per l'islamista la violenza è solo un mezzo che come tale prevede uno scopo, l'implementazione a livello mondiale di una legislazione che altro non è che sharia, capace di decidere sulla moralità individuale, la famiglia, l'economia, forse anche per governare il sistema politico. Caro Gad Lerner e cara Laura Boldrini, scusate, com'era la barzelletta sull'Islam moderato? Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Claudio Cerasa a proposito di Turchia. Cari Lerner e Boldrini, com'era quella barzelletta sull'Islam moderato? Dal Foglio del 25 luglio. Come tutti gli attentati compiuti in Europa negli ultimi anni, anche quello di Saint-Étienne-du-Rouvray è stato compiuto da sospetti jihadisti, noti alle forze dell'ordine che hanno potuto organizzare la loro azione senza essere disturbati, complice l'inefficienza del sistema giudiziario europeo nel contrastare la minaccia islamica. E come accade spesso in questi casi, le prime agenzie di stampa hanno descritto i due aggressori come persone afflitte da problemi mentali. Solo quando poi si è saputo che uno dei due era schedato come estremista islamico, il tema dello squilibrio mentale è stato temporaneamente messo da parte. Sarebbe ora di finirla, scrive Angelo Panebianco in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Che prosegue. È assai probabile che se uno si vota all'assassinio di persone inermi, sia affetto da gravitare. O vogliamo forse dire che colui che entrava nelle SS per il gusto di commettere omicidi, o il bolscevico che scannava contadini ricchi, o tutti quelli che il partito definiva nemici, o la Guardia Rossa impegnata in azioni criminali per conto di Mao Zedong, fossero persone serene ed equilibrate? È difficile che lo fossero. Ma ciò non permette di occultare il rapporto fra le loro azioni e il totalitarismo. Non si può fingere che nazismo e comunismo non c'entrassero niente. Allo stesso modo, dire che il tale o tal'altro jihadista ha problemi mentali non consente di negare il legame che c'è fra la sua azione e la guerra dichiarata dall'islamismo radicale contro l'Occidente. Con l'eccezione del tedesco iraniano della strage di Monaco, qui sono sempre in gioco problemi politici, militari, di sicurezza, non le mancate cure psichiatriche. L'unica vera novità è che oggi il web, rendendo istantanee le comunicazioni, consente alla propaganda violenta di diffondersi molto più rapidamente di un tempo, di suggestionare con assai maggiore efficacia gli psicolabili in cerca di nobili motivi per ammazzare il prossimo. L'estremismo islamico ci sguazza. La si giri come si vuole, ma questo è il problema. Mentre l'islamismo estremista in Francia vota a destra, lavora per favorire la vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali dell'anno prossimo, i politici europei per bene ci mettono del loro per garantirsi future sconfitte politiche, riempiendo l'aria di parole senza senso. Come la pietosa bugia secondo cui, siccome i terroristi islamici ce l'hanno con le nostre libertà, e questo è sicuro, noi dobbiamo non fare arretrare di un millimetro il perimetro di quelle libertà. ma è impossibile. Per fare il primo e più ovvio esempio, è molto probabile che la libertà pressoché totale di cui ha sempre goduto il popolo della rete stia per trasformarsi in un ricordo. Constatato che il web è, al pari dei coltelli e degli esplosivi, un'arma da combattimento utilizzata dagli estremisti islamici, diventeranno sempre più estesi, stringenti e capillari i controlli per bloccare la circolazione di messaggi jihadisti, con inevitabili ricadute negative sulla più generale libertà di comunicazione. Lo stato di emergenza è stato dichiarato in Francia perché così prevede la Costituzione, ma è probabile che forme non dichiarate, non formalizzate, di stato di emergenza si affermino un po' ovunque in Europa. Saranno le opinioni pubbliche ad esigerlo. Un'Europa sotto attacco dopo 70 anni di pace ininterrotta è costretta a cambiare tutti i suoi criteri di giudizio. Per esempio, non sarà più possibile fare previsioni economiche senza mettere in conto gli effetti psicologicamente devastanti dell'aggressione terrorista. C'è un problema per le classi politiche che devono affrontare l'emergenza. C'è un problema per gli intellettuali, molti dei quali ancora impantanati quando si parla di Islam, nelle trappole del politicamente corretto. E c'è un problema per le chiese cristiane, quella cattolica in primis. L'impressione è che per ragioni essenzialmente georeligiose, una parte della Chiesa, non tutta certamente, si sia rassegnata a dare per perduta l'Europa secolarizzata, ad assumerla come definitivamente dimenticata dalla sua tradizione cristiana, e che per questo stia scommettendo su altre aree del mondo, perdendo di vista il fatto che un cristianesimo che allentasse troppo i suoi legami con l'Europa diventerebbe molto diverso da ciò che è stato. Se questa impressione fosse esatta, allora bisognerebbe dire che quella parte della Chiesa starebbe commettendo un grave errore. L'attacco di Saint-Étienne-du-Rouvray dovrebbe aprirle gli occhi. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Angelo Panebianco, Le troppe realtà negate, dal Corriere della Sera del 27 luglio. Dopo l'attentato nella chiesa, per la prima volta c'è stata una condanna unanime dei terroristi da parte del mondo islamico non integralista. Ma uccidere i cristiani nei luoghi di culto non è una novità per i musulmani, come commenta Giuseppe Laras, ex rabbino capo di Milano, che prosegue. Si pensi ai copti in Egitto, massacrati nel silenzio dell'Occidente, ai cristiani filippini, ai cristiani in Pakistan, ai cristiani iracheni e al loro sterminio. Alcune immagini le abbiamo perfino viste in diretta, comprese le donne vendute schiave, rinchiuse in gabbia come polli. Le femministe in Occidente tacquero e non manifestarono. Le chiese europee furono troppo tiepide o comunque troppo silenti nei confronti dei loro fratelli di Oriente. Da questa prospettiva non stupisce che drammaticamente in Europa, in una chiesa, un sacerdote, oggi martire, sia stato sgozzato come un animale. Dalla Normandia alle Filippine, dai fatti di questi mesi a quelli che perdurano ormai da decenni, il minimo comune denominatore è l'Islam jihadista, di cui Daesh è solo un'espressione acuta, assieme al silenzio assordante o alle parole non bastanti di tanti altri musulmani per bene, contrari sì, ma titubanti o impauriti. Il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, caro alla comunità di Sant'Egidio e ad alcuni politici italiani, giustamente condanna quanto è accaduto martedì scorso. Mi chiedo però dove fosse quando è accaduto altrettanto nei centri ebraici europei, da Tolosa a Parigi. E mi chiedo, e lo chiedo in relazione a lui e alle sue dichiarazioni, con acribia a cristiani, ebrei e musulmani, come pure a politici e intellettuali, che pensi del libro del suo insigne predecessore alla medesima cattedra, l'imam Muhammad Said Tantawi, morto recentemente nel 2010, dove questi così scriveva a chiare lettere. Il Corano descrive gli ebrei con le loro proprie caratteristiche degenerate, quali uccidere i profeti di Allah, corrompere le sue parole inserendole in luoghi sbagliati, consumare frivolmente il benessere degli altri popoli, rifiutare di prendere le distanze dal male che essi compiono e altre oscene caratteristiche originate dalla loro profondamente radicata lascivia. Soltanto una minoranza degli ebrei mantiene la parola data. Non tutti gli ebrei sono uguali. Quelli buoni diventano musulmani, i cattivi no. Leggendo i giornali di questi giorni e molte esternazioni di vescovi e cardinali, il fatto che la Chiesa cattolica sia divenuta vecchia e tremebonda, almeno in Occidente, non rappresenta purtroppo in sé un progresso morale. Specie se risulta difficile persino chiamare il male per nome e dire che si tratta di Islam jihadista e che l'Islam jihadista, che non esaurisce l'Islam e il mondo variegato dei musulmani, ma che comunque ne è disgraziatamente parte attiva, nutrita, ben radicata e ricca, è un'ipoteca epocale per il sussistere, almeno in Europa, della nostra civiltà. Al riguardo, l'ultimo discorso meritorio, serio e puntuale, è stato il magistrale e profetico discorso di Ratisbona di Benedetto XVI, che andrebbe rivendicato, diffuso, riletto e profondamente meditato. Difendere la nostra civiltà, pur con tutti i suoi molti limiti e la sua storia difficile e contraddittoria, ha dei costi. Costi in vite umane, che abbiamo già iniziato a pagare, e costi in arte, letteratura, poesia, architettura, filosofia, teologia, musica, libera ricerca scientifica e, infine, scienza politica. Tutto questo ha richiesto infinito tempo e infinita fatica. Pensare che tutto ciò, che è preziosissimo, non meriti la fatica e le lacrime di essere difeso, costi quel che costi, anche la vita, è o perversione e corruzione, oppure già la stessa resa. E il fattore tempo è anch'esso non a nostro favore. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Giuseppe Laras, L'imam di Al-Azhar condanni anche gli attacchi agli ebrei, da Il Foglio del 28 luglio.